visitando Israele, disse: ma qui le cose sono molto peggiori che come da noi. E in effetti è vero, perché i sudafricani razzisti non cacciarono mai via i neri dal Sudafrica. Invece la pulizia etnica è quello che vale nella Palestina di oggi. Oggi gli israeliani vogliono cacciarli via i palestinesi, dicono questi non ci devono essere qua, se ne devono andare. Quindi è colonialismo più pulizia etnica. Ecco, hai nominato la tappa del giro, che la prima, che parte da Gerusalemme, che si svolgerà a Gerusalemme. Altre due tappe, la seconda e la terza, si percorreranno strade sul territorio israeliano. E anche questo passaggio fisico del Giro d'Italia da queste strade ha delle conseguenze sulla condizione dei palestinesi, perché ho potuto leggere deportazioni, di nuovo di spostamento di persone e allargamento dei confini, allargamento delle occupazioni, proprio per coprire la devastazione che lascia l'esercito israeliano sui territori. Quindi non so se volete spiegarci bene la questione di Gerusalemme e l'unificazione. Nel senso, Gerusalemme è sulle pagine di tutti i giornali proprio ultimamente, sull'ambasciata, l'ambasciata americana che è stata spostata proprio lì, ha creato tanto scompiglio nel mondo arabo, in generale nel mondo in toto. Dunque, lo spostamento dall'ambasciata americana a Gerusalemme, e segnatamente a Gerusalemme Est poi, perché stanno predisponendo i terreni, non in Gerusalemme Ovest, ma proprio in Gerusalemme Est, nella Gerusalemme palestinese. Questa mossa di Trump è stata seguita da altri stati. Ma quali sono questi stati? E che vengono celebrati io seguo molto le newsletter israeliane, no? Quelle sioniste. E questi, con grande trionfalismo, elencano gli stati che stanno seguendo Trump in questa impresa, cioè di spostare la propria ambasciata a Gerusalemme. Chi sono questi stati? L'Honduras, il Guatemala, e poi qualcuno più o meno equivalente come livello democratico, cioè tutti gli stati dove c'è una dittatura che fa schifo, o dove i governi sono stati formati direttamente dagli americani. Cioè è una cosa scandalosa, sì. C'è anche da dire che Guatemala e Honduras, le forze di repressione di allora furono proprio addestrate dagli israeliani. E ancora adesso alcune forze di anti-insorgenza, come le chiamano loro, sono addestrate dagli israeliani. Addirittura in Salvador c'è una grande stella di David, un grande monumento in centro alla capitale, proprio in omaggio a Israele e all'aiuto che diede ai tempi per fare appunto repressione in quegli stati. Io dico, insomma, a noi mi va benissimo anche il Giro d'Italia in Palestina, però quello che io trovo vergognoso è che noi, cioè, per dire, accettare, a dare la possibilità a un paese come Israele, che cioè, appoggiare nella sua politica contro un diritto internazionale, sapendo che Gerusalemme è una città delle Nazioni Unite conosciuta in due stati, deve essere capitale per due stati. Quando io do la possibilità a Israele, con questo giro, dell'unificazione, come se fosse la Gerusalemme tutta una capitale per un solo stato, questo lo trovo un po' molto grave per le democrazie internazionali, anche in particolar modo europee, che ne qui tutti noi ci piace sentire a cantare, sentiamo il ministro della democrazia, democrazia. Io credo questo quello praticamente che anche ha aiutato questo il silenzio a livello anche qui, se vi permettete, vuole toccare la comunità europea, che ha dato anche la possibilità, ha dato il coraggiamento anche, il coraggio a uno come Trump, di fare la sua mossa di regalare la Gerusalemme intera come capitale a Israele, allo Stato di Israele. Questo noi siamo, ragazzi, stiamo toccando, credo, il fondo. E qui l'Europa, io, se mi permettete, l'Europa è colpevole, e come per la mia disfatta in Palestina. Perché l'Europa, le francesi, a mano del francese, l'inglese, loro che hanno creato lo Stato di Israele nella terra di Palestina. Sicché loro, ora tocca a loro di darci una mano, tocca a loro, con tutto il rispetto alle Nazioni Unite che hanno votato contro questa mossa americana, con 135-136 paesi contro questa, giustamente questa mossa e questa politica di Trump, che io qui noi l'applaudo e lo ringraziamo, perché almeno non solo hanno protetto il diritto palestinese, hanno protetto il diritto internazionale, perché noi ora il pericolo che stiamo correndo non solo la Palestina e i palestinesi, qui stiamo ora con questa politica di Israele e il silenzio mortale, tombale della comunità europea, con questa politica americana stiamo rischiando praticamente gli ultimi due punti di riferimento per la giustizia internazionale, che sarebbe le Nazioni Unite e il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Se non lo so, se ho tempo, posso solo dire queste due parole. Lo trovo vergognoso e dobbiamo essere tutti un po' indignati o sdegnati, le democrazie internazionali, quando sentiamo la rappresentante americana al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ora non mi viene il suo, come si chiama, non vuole nemmeno ricordarmi questo nome perché assolutamente non ci fa piacere, a dire che non vota con l'America, cioè con l'America, per questo, insomma, sua politica del trasferimento dell'ambasciata e di regalare Gerusalemme, conoscere Gerusalemme come capitale a Israele, deve aspettare, minacciosa, deve aspettare le conseguenze. Per fortuna, sia al Consiglio di Sicurezza dell'ONU sia alle Nazioni Unite, tutti hanno votato contro questa mossa di Mr. Trump. La mia richiesta come palestinese ora, essendo la comunità europea che mi ha creato questa colpa, cioè questo disastro, minimo io qui mi rivolgo a loro, a queste democrazie, se ancora esiste un po' di democrazia, di uscirne e di riconoscere lo Stato della Palestina. Non stiamo chiedendo di armarci, di darci missili, perché noi non vogliamo né combattere, non vogliamo né missili né aerei. Vogliamo vivere in pace. Conoscete la Palestina come praticamente è stata conosciuta dal diritto internazionale, dalle Nazioni Unite e dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, in cui hanno diviso la Palestina in due stati. C'è qui ora un stato che esiste, che sarebbe Israele, e manca quello palestinese. Non è una cosa. Sicché io chiedo all'Europa di fare la stessa politica della Svezia quando ha conosciuto lo Stato della Palestina. Sì, la situazione è difficilissima e molti ci chiedono come andrà a finire. Questo nessuno ha la sfera di cristallo e nessuno di noi può dire come andrà a finire. Quello che invece è chiaro è quello che noi dobbiamo fare, e dobbiamo prendere esempio da come si comportano i palestinesi, i quali resistono in forme diverse, perché ci sono state forme di resistenza che si sono evolute nel tempo, alcune che sono approvabili, altre che non sono approvabili, ma da parte nostra, ma che comunque hanno resistito in modi diversi, in modo armato, in modo disarmato. Le forme di lotta che attualmente mi parlano, almeno da osservatore, che quello che posso osservare io, quelle che mi parlano più efficaci sono le forme di lotta non violente, perché gli israeliani sanno bene come combattere la violenza, ma non sanno come combattere la non violenza, perché combattono la non violenza con la violenza, e in questo si degradano ancora di più e sprofondano ancora di più nella vergogna. Ecco, quello che noi dobbiamo fare e quello che noi possiamo fare è quello che stiamo facendo adesso, appunto, piccole cose, ma piccole cose che sappiamo che sono significative per i palestinesi che resistono. Quando noi facciamo le adozioni dei ragazzi palestinesi perché possono studiare, noi siamo coperti poi da lettere di ringraziamento, si sentono sostenuti. Quando i nostri rappresentanti o i nostri italiani internazionali vanno ad aiutarli, ad accompagnare i bambini a scuola, ad raccogliere le olive, loro si sentono sostenuti. E si sono sostenuti se noi informiamo su quello che, perché quello che ci dicono quando andiamo lì, quando noi chiediamo cosa possiamo fare per voi, loro ci dicono raccontate quello che avete visto, raccontate la nostra situazione, raccontate le cose come stanno. E noi le cose le andiamo a raccontare nelle scuole medie superiori, ma anche nelle scuole medie inferiori, perché c'è grande interesse sulla Palestina, molto più interesse di quello che non appare invece dalle televisioni o da come le televisioni raccontano la storia. Noi siamo oberati da richieste di insegnanti che ci dicono la Palestina ci interessa e facciamo interventi, in generale sono interventi di 2 ore nelle scuole medie superiori ma anche nelle scuole medie inferiori sulla storia vera, perché la gente si chiede ma come mai si è arrivati a questo punto, ma ecco, e la biciclettata di sabato prossimo sarà uno di questi momenti. Biciclettate sono già state fatte a Napoli, a Catania, a Bologna, a Torino, a Udine, a Vicenza, a Ravenna, insomma, e adesso la facciamo finalmente a Firenze e non è data pioggia per sabato prossimo e quindi speriamo che tutto vada bene. Benissimo, allora l'appuntamento è per il 31 di marzo, ci vedremo in piazza. In piazza Santissima Annunziata alle 4 del pomeriggio. Alle 4. Portando bandiere, portando kefia, portando quello che ognuno riesce a mettere sulla bicicletta. Bene, un grande ringraziamento a BDS Italia e alla comunità palestinese. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie mille. Bene, ciao.